In un programma televisivo indirizzato alla discussione di questioni legali, ho seguito un'accesa discussione, svoltasi tra due coniugi alla presenza del giudice, che ha messo in evidenza una realtà tanto sconosciuta quanto difficile da accettare. Il marito aveva chiamato in giudizio la moglie, perché l'aveva tradito. Il marito era a lavorare, ma sentitosi improvvisamente poco bene, è tornato a casa ed ha sorpreso sua moglie, che lo stava tradendo con un altro uomo nel loro letto matrimoniale. Senza infierire, senza colpo ferire, ha chiuso la porta e in seguito ha deciso di chiedere il divorzio e di addebitare tutta la colpa morale e la parte finanziaria del divorzio a sua moglie. La moglie da parte sua ha confermato il tradimento al marito, ma dichiarando che la colpa non era sua, perché in 14 anni di matrimonio non aveva ricevuto dal marito ciò che si aspettava. La moglie incolpava suo marito di trascurare lei e i loro due figli a causa del lavoro, di non averle rivolto le giuste attenzioni, di non averle mai comprato dei fiori, di non averla mai portata fuori a mangiare un gelato e perché non le faceva le carezze. A causa di queste mancanze di interesse, lei aveva trovato tra le braccia di un altro uomo ciò che il marito non le aveva dato e perciò chiedeva al giudice una certa somma di denaro per i danni morali e per il proprio sostentamento. Il pubblico presente, avendo possibilità di intervenire, ha espresso le più disparate reazioni. Tra queste spiccava il giudizio verso la donna, perché quello che aveva fatto non avrebbe dovuto farlo in casa, evitando di essere scoperta anche dai figli. Secondo il pubblico, se la moglie voleva tradire il marito, doveva farlo in un modo più furbo. Inoltre, gli spettatori incolpavano il marito di insensibilità verso la moglie. In definitiva, secondo il pubblico, la colpa era del marito, perché con la sua trascuratezza aveva costretto al tradimento la povera moglie incompresa. Al termine dell'udienza, il giudice ha assolto la donna, perché le sue attese amorose erano state deluse, perché il marito era la causa del suo tradimento e, come conseguenza di tutto ciò, il giudice ha penalizzato l'uomo a pagare un mantenimento per i figli. Dire che sono rimasto sorpreso è poco, ma la mia mente è andata a ripescare una verità in merito al matrimonio che è opportuno rivedere per incoraggiare gli sposi ad un'unione durevole fino alla morte e perché si abbiano le idee più chiare riguardo a cosa sia un matrimonio. Non tutti si sposano con gli stessi obiettivi primari. Ci è chi si sposa per essere felice, chi per avere dei bambini, chi per avere una famiglia, chi per fuggire da casa, chi è costretto perché ci è in arrivo un bambino, chi per coprire il disonore della mancanza delle verginità, chi perché è tanto innamorato da non riuscire di stare da solo e chi perché è avanti di età. Partendo con queste e altre prospettive, è evidente che vivere in armonia nel matrimonio diventa più che azzeccare un terno al lotto. Perciò, molto raramente si trovano coppie con gli stessi obiettivi e che intessono nel rapporto di coppia quel legame così indispensabile. Ma se oggi il matrimonio per molte coppie è diventato una relazione insostenibile, non è dovuto tanto alla diversità di carattere o di prospettive, perché queste con l'amore, la pazienza, la sopportazione sono conciliabili e a volte risolvibili. Ma la principale causa delle crisi matrimoniali è l'errata opinione che si ha dell'unione matrimoniale stessa. Questo almeno accade nella cultura occidentale, perché in certe altre culture il matrimonio è considerato sotto un'ottica totalmente differente. Qual è la malattia che ha prodotto la morte nel rapporto di coppia? E il romanticismo? In effetti, la moglie in questione ha tradito il marito non perché non mantenesse la famiglia o perché la picchiasse o la violentasse, ma la ragione addotta era l'assenza di giuste attenzioni romantiche da parte dell'uomo. Da nessuna parte è scritto che il marito deve portare alla moglie dei fiori, da nessuna parte è scritto che il marito durante il giorno deve fare le carezze alla moglie o comprarle il gelato. E per comprendere questo occorre fare un salto di qualche migliaia di anni fa e considerare come fossero valutati il matrimonio e il rapporto di coppia. Si potrebbero prendere al vaglio molte culture e leggere molti libri, ma è sufficiente ricorrere alla Bibbia. Perché oltre a consistere in 66 libri ricchi di informazioni storiche e culturali, è la parola di Dio, cioè il messaggio proveniente dal Creatore che ogni uomo deve udire e al quale deve anche ubbidire. Quando leggiamo nel libro della Genesi che Cristo formò un uomo e una donna, notiamo che ricevettero l'ordine di lasciare i loro nuclei familiari per formare una nuova cellula nella società. È evidente che in quell'ordine non potevano rientrare tutti gli aspetti riguardanti il matrimonio. Perciò, per scorgere come era concepito anticamente il matrimonio, dobbiamo osservare i costumi e le abitudini degli ebrei, non tanto per riguardo alla loro cultura che potrebbe anche non interessare, ma in quanto furono il primo popolo a seguire gli ordini di Cristo. Una verità lapalissiana della cultura ebraica è che la scelta della sposa era per lo più decisa dai genitori o dall'uomo stesso. La volontà della donna nella scelta del marito era quasi nulla, tanto era vero che la moglie era vista come facente parte dei beni dello sposo. Qualcuno potrebbe pensare che questa era cultura degli ebrei e che era maschilista e sbagliata, ma le leggi di Dio date in favore al matrimonio non prevedevano altra prospettiva. E, sufficiente pensare ad alcune di esse. La prima era in merito alle prigioniere di guerra. Quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e l'Eterno, il tuo Dio, te li darà nelle mani e tu li farai prigionieri. Se vedi tra i prigionieri una donna di bell'aspetto e ti piace tanto da volerla prendere per tua moglie, la condurrai a casa tua ed ella si raderà il capo e si taglierà le unghie, si leverà la veste di prigioniera, abiterà in casa tua e farà cordoglio per suo padre e sua madre un mese intero. Poi entrerai da lei e sarai suo marito e lei tua moglie. Se in seguito non ti piace più, la lascerai andare dove vuole, ma non la potrai affatto vendere per denaro né trattarla da schiava, perché l'hai umiliata. Deuteronomio 20.1014. Le leggi dell'Eterno sono meravigliose perché sempre a favore dei deboli. Un uomo poteva anche approfittare di una prigioniera di guerra, ma l'Eterno Dio aveva stabilito per quest'ultima gli stessi diritti di una qualsiasi donna. È evidente che il matrimonio contratto con una prigioniera di guerra non aveva nulla di romantico. La donna doveva inoltre servire in tutto un uomo che era meno, oltre al resto meno, anche l'assassino del suo popolo, se non dei suoi familiari. Si può rispondere che questi erano costumi barbari di un tempo non più in uso oggi, e questo è vero, ma le altre leggi di Dio fanno comunque comprendere che il matrimonio è tale, anche senza fiori e gelato, soprattutto in merito alle unioni tra schiavi stabilite dai loro padroni. Ora queste sono le leggi che tu porrai davanti a loro. Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, ma il settimo se ne andrà libero, senza pagare nulla. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figli di lei saranno del padrone, ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo apertamente dice «Io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli e non voglio andarmene libero», allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio e lo farà accostare alla porta o allo stipite. Quindi il suo padrone gli forerà l'orecchio con un punteruolo, ed egli lo servirà per sempre. Esodo 21.1-6. Il padrone aveva l'autorità di scegliere la moglie per il proprio servo, così il servo e la moglie dovevano convivere anche senza ciò che noi chiamiamo il colpo di fulmine, o senza il tanto sospirato innamoramento. Questa era la legge civile stabilita da Dio. Un terzo ed ultimo aspetto, che mette in evidenza che il matrimonio è tale anche senza le dovute attenzioni da parte dell'uomo nei confronti della donna, lo si trova nell'ordine di Dio di proteggere la moglie dalle ingiustizie. Se prende un'altra moglie, egli non diminuirà il suo cibo, il suo vestiario e la sua coabitazione. Se non fa per lei queste 3 cose, ella se ne andrà per niente, senza pagamento di prezzo. Esodo 21.1-0.1. In una cultura poligama, era facile che un marito preferisse una donna ad un'altra, e era anche possibile che egli non provvedesse alla moglie meno amata le cose indispensabili per la sua sussistenza. Per questo l'Eterno Dio aveva ordinato che la donna maltrattata fosse libera di andarsene. Nelle 3 ragioni previste da Dio perché la moglie potesse lasciare il tetto coniugale, erano contemplati il cibo, il vestiario e la coabitazione, ma non vi è nessuna allusione ad un comportamento comprensivo e romantico. Per gli ebrei e per Dio la mancanza di delicatezza, di comprensione, di romanticismo, non erano e non sono ragioni per sciogliere un matrimonio. Detto questo, non si vuole affermare o incoraggiare a vivere come dei porcospini che ovunque vadano pungono, ma si vuole sottolineare che non è lecito davanti a Dio chiedere il divorzio o abbandonare il tetto coniugale solo perché non vi è da parte di un coniuge la giusta comprensione che dovrebbe esserci, o perché non si ha un rapporto di coppia esilarante. Tutti gli sposi, ma proprio tutti, hanno delle ragioni per affermare che le loro aspettative non sono state raggiunte o soddisfatte. E Dio ne era consapevole. Per questo nelle sue leggi l'Eterno non ha fatto dipendere la validità del matrimonio dalla passeggiata, dal gelato o dalla serata romantica. Nonostante questo, resta valido che Dio stesso ordina all'uomo di lasciare il suo egoismo maschilista ed essere comprensivo verso la donna. Voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. 1 Pietro 3.7. Se un marito è comprensivo ed onora la donna e se la moglie mantiene il suo ruolo di sottomissione all'uomo, allora gli sposi realizzeranno che il matrimonio è veramente un meraviglioso dono, perché, qualunque sia la loro esperienza, esso rimane tale. Sta a noi realizzarlo. Novembre 2006. Ellero. Contributo. Desiderio e tenerezza. Claudiana Eric Fuchs.